Non c'è un'antenna o cazzo, purtroppo. Chi c'è qua? Giano, ci sei? Ciao Paolo, oi. Zio Claudio, ci sei all'ascolto? Gianni, ci sei Gianni? Gianni, ci sei in radio? Chi è avanti?